Sottotiro. Sottotiro. Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Oggi questa puntata la iniziamo in un modo un po' diverso dal solito, anomalo, lasciatemelo dire, sentite un po' qui. Prova da te quarla cata mano co creatore. Je bella sen, je bella sen. Ma ste pur la brutta vita, perché troppo cristiane soffrono de mala vita. Yes, nella notte se ritirna la mattina. E la mamma che non dorma da spateca se ritira. Bonne come nonne, sopo scuterine. E ancora una nasce, e già se sendre malandrine. A chialda sola lecchi, e sempre ben vestite. La cosca è con da sen, con da sen. Doia fossile. Allora io ammetto di non aver capito molto dalla canzone, perché è in barese stretto, ma una cosa l'ho capita leggendo la Gazzetta del Mezzogiorno, che queste canzoni che spopolano sul web sono di un ragazzo, di un giovane che si chiama Giuseppe Poliseno, in arte Toki, è un rapper, e con questa musica che si capisce più o meno quanto si capisce un rapper americano, cioè zero, per chi, tranne che per chi è ovviamente barese o statunitense, ebbene qui si capisce che questo rapper con la sua musica manda un messaggio positivo, una serie di messaggi positivi contro la malavita organizzata, che in Puglia, e ce ne siamo già occupati nel passato e continueremo a farlo, è molto molto organizzata, scusatemi il gioco di parole, nonostante recentemente siano stati decapitati diversi clan, tra i quali Strisciuglio a Bari, ma non esiste soltanto Bari, la zona della Capitanata, Foggia, la stessa Taranto, sono città invase dalla malavita. Buongiorno Toki. Buongiorno. La chiamo Toki o Giuseppe Poliseno? Mi dica lei. Toki va benissimo. Toki va benissimo. Allora, lei ha un sito, ha un luogo in cui far pubblicità le sue canzoni? Lo dico perché ovviamente è giusto dare voce, dare forza ai giovani che si impegnano in ogni modo contro le mafie. Ce l'ha un sito? C'è su YouTube, basta scrivere Toki per trovare i vari video, canzoni, o su Facebook Toki c'è la pagina, per cliccare mi piace. Perfetto, benissimo. Allora, Toki, una domanda così, come dire, anche se vogliamo un po' maliziosa, ma non sarà che lei fa il rapper contro la mala soltanto perché c'ha i muscoli, è asciutto, c'ha una capoccia calva che incute timore, e poi vuole seguire i rapper americani che, ex delinquenti, ex galeotti, adesso invece hanno abbandonato quella vita e si dedicano al recupero di chi purtroppo non ce l'ha fatta? Allora, io parlo, a differenza magari di molti rapper che fanno musica facendo rime o incitando, io cerco di dare dei consigli di vita, scrivo su esperienza personale, perché la musica è anche un buon mezzo di comunicazione per i giovani. Assolutamente sì. Non sbagliare. Ed è per questo che ce l'abbiamo qui ospite. Ho avuto un'infanzia, comunque i miei genitori lavoravano, non mi sono stati molto dietro, quindi io l'ho vissuta questa vita di strada, e quindi cerco di dare dei consigli, di dire non fate questa vita perché vi porta a determinate conseguenze, e cercate di lavorare, di avere una vita più sociale, ecco, una vita più... Certo, vita. Certo. Ecco, lei dice ad un certo punto in questa intervista che rilascia la Gazzetta del Mezzogiorno, la musica e la passione per le arti marziali, e guardandola in foto effettivamente io non farei mai a botte con lei, sono state la mia ancora di salvezza. Sì. Questo messaggio, voglio dire, per quanto lei si possa rendere conto, è seguito dai giovani di Bari, cioè lei sta facendo proseliti, perché poi suppongo che, al di là del fatto di camparci con le canzoni, ma sia questo il suo scopo, no? Dare dei messaggi di legalità ai suoi concittadini. Sì, anche perché con la musica, cioè, io parlo personalmente, non mi ha mai portato soldi, non penso forse me ne porterà. Magari speriamo, lo faccio per passione, però lo faccio proprio per passione, come le arti marziali, come fare pesi, come fare tutti gli sport che ho fatto, la subacquea, ho fatto tanti sport, e le passioni ti tirano fuori dalle vie proprio della strada, quelle sbagliate, le droghe, tutte queste cose qui dove uno sbaglia perché bene o male ci passano tutti, chi meglio, chi peggio, chi un pochino, e quindi con la musica che si riesce a dare molto messaggio ai giovani, certo, che certo, l'ascoltano, si cerca di farlo capire. Assolutamente, ecco, nei suoi video, perché poi andando su YouTube appunto e digitando Toki si trovano i suoi video, passano anche delle immagini abbastanza cruente. Ecco, lei pensa che queste immagini cruente servano per ottenere il risultato opposto a quelle che rappresentano, vale a dire di paura, no? E quindi un messaggio positivo nei confronti dei giovani? Uno prego. Ascolta le parole, infatti sentivo nella sigla una vecchia sigla di tipo Capodicati, queste cose qui. Io ho fatto anche una canzone dedicata proprio alla storia di Dottorina, però dicendo tutto quello che ha fatto, quello che ha comportato, e se anche lì dico andate, certo, a lavorare, fate questo, lasciate questo tipo di vita, perché poi lui ha fatto questo ma ne sta pagando le conseguenze, perché le conseguenze si pagano, assolutamente, molto più care di quelle che puoi fare. Cioè, non ti porta a nulla. Assolutamente. Intanto ricordiamo che Toki non è l'unico, perché in questo momento la Puglia è un bel laboratorio di criminalità, di anticriminalità, di mafia ed antimafia, diciamocelo chiaramente. In la criminalità, perché purtroppo è ancora molto violenta, di antimafia, non parolaia ma con i fatti, perché sono molti quelli che resistono. Ecco, anche con la musica si resiste bene, e Toki non è l'unico che si fa, come dire, che porta avanti questo messaggio di legalità attraverso la musica, ma sono anche altri gruppi, dico bene o dico male, Toki? Sì, ci sono, però come le ho detto prima, la differenza è che ci sono altri gruppi, però sono vissuti la maggior parte di questi in centri residenziali dove comunque si vive bene, non certo, parlano per sentito dire ciò che sentono dai certo, giornali, tutto quanto. Mentre invece io lei non mi nascondo, non è di certo una cosa bella, ma non è neanche una cosa brutta, le ho vissute, le ho fatte queste cose, è stata una mia esperienza negativa del passato. Certo. Cioè, ma lei ha vissuto anche io dico agli altri non ci passate, non ci passate. Ma lei ha vissuto anche le patrie galere? No, io ecco, meno male. Ho fatto qualche, diciamo, tra virgolette, qualche cazzata, però ecco, sì, dai. Sì. No, ma guardi, le cazzate le abbiamo fatte tutti, quindi l'importante è avere la consapevolezza che bisogna superare. Viva Toki! Allora, andate, digitate su YouTube il suo nome, lo fa per passione, lo fa per mandare un messaggio positivo. Lo ringrazio, così come ringrazio Carmelo Lauricella in regia e Valeria Coffaro in studio. Vi ricordo il mio blog, Guardie o Ladri. Lo sapete, parlo soltanto di mafie, e vi ricordo la mail sottotiro@radio24.it. Vi prego di mandare le storie di chi resiste, storie belle come queste di questo rapper cantautore barese. Buona giornata a tutti.